l'Italia, l'Italia, le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a coorte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva di Carlo Alberto Carnevale Maffè e Oscar Giannino. Buon sabato mattina, buon inizio d'anno, buon 3 gennaio e buon Santa Genoveffa, visto che oggi questo è il santo, quindi chi si chiamasse Genoveffa, auguri, abbracci da parte dei compari dei conti della Belva, qui dalle 10 alle 12 in diretta di Studio Radio 24 di Milano. Vi dico subito il numero di telefono, perché poi arriveremo naturalmente immediatamente dopo alla sintesi dei temi del giorno. Comunque chiamate 800 24 0024 per intervenire, ma intanto i saluti di tutti i compari, oltre al mio Oscar Giannino, Carlo Alberto, Mario, Renato. Eccoci qua, però oggi non c'è Francesca il Rosso perché con i bambini è in vacanza, quindi da questo punto di vista siamo una buona sintesi del comportamento degli italiani. Non siamo in linea invece con l'83,5% di vigili urbani romani assenteisti a Capodanno. Non è vero invece che anche noi doniamo il sangue ogni giorno direttamente all'Agenzia delle Entrate. Esattamente, però tra l'altro ho fatto una verifica, se guardate i giornali di oggi, io ieri ho perso l'intero pomeriggio, ero ordinato per un pezzo che trovate sul Mattino di oggi per l'approfondimento statistico e la comparazione pubblico-privato delle assenze non solo per ingiustificato motivo, le assenze di tutti i tipi, ferie, permessi retribuiti, ex legge 104, l'assistenza ai disabili e così via, nel pubblico e nel privato. Nel nostro sistema statistico nazionale la possibilità di avere cifre facilmente accessibili ordinate non c'è. Come verificate, se paragonate il mio pezzo di oggi con chi approfondisce meglio è La Stampa, Paolo Barone, come sempre straordinario, troverete delle cifre che non hanno il dono di essere sinteticamente comparabili, perché l'Istat fa una rilevazione trimestrale delle forze di lavoro dove c'è solo quella di comparazione tra pubblico e privato per le assenze di malattia, solo quelle di malattia, e anche lì nel pubblico troverete che c'è una discrasia settore per settore tra il più 15 e il più 20% rispetto al privato. Mentre invece il rapporto che veniva dato al Parlamento ogni anno sull'assenteismo c'è stato solo in 2 anni, si è fermato con i dati del 2010, poi non è più stato curato, ma c'è il conto della Ragioneria Generale dello Stato, il conto annuale, nel quale, con dei fogli Excel pesantissimi, c'è tutto quello che riguarda i dati, ed è quello che ho approfondito nel mio pezzo, cioè l'unico quotidiano italiano, perché ci vuole una mezza giornata di lavoro, in cui ci sono tutte le assenze per ogni settore della pubblica amministrazione di ogni tipo, ma non c'è la comparazione col privato, quindi naturalmente bisogna perdere poi 2 giorni per fare tutte le comparazioni. Vi dico solo una cosa: nel 2013, che sono i dati più aggiornati dell'ultimo conto del generale della ragioneria, i giorni medi di assenza annuale, sommando tutte le ragioni, ferie comprese, permessi, scioperi, legge 104 e così via, nella pubblica amministrazione uomini erano 42 giorni all'anno, le donne più elevato 52, ma la cosa pazzesca è che se andate sotto settore della pubblica amministrazione per sottosettore c'è un coefficiente di dispersione altissimo. Per esempio nei corpi di polizia, e questo si capisce perché c'è una, diciamo, è un lavoro molto duro, i giorni di assenza salgono rispetto a 42 giorni medi anno degli uomini a oltre 60, ma nei vigili del fuoco scendono a meno di 20. Come è possibile questo? Alla Presidenza del Consiglio i dipendenti maschi mancano per 58 giorni l'anno. Voi capite che se nell'università mancano per poco più di 20 c'è qualche cosa che non torna, e quello che non torna soprattutto è fare il nostro difficile mestiere, cioè informarvi. Allora, detto tutto questo, un rapidissimo giro per capire che cosa ci ha fatto arrabbiare a inizio d'anno. Io arrivo subito poi a dire la mia, ma intanto giro tra i compari. Caro Alberto, che ti ha fatto arrabbiare questo inizio d'anno? Gli auguri in generale. Sì, no, nel senso che non li sopporto, Oscar, non sopporto gli auguri, io sono un razionalista cartesiano, cioè per me il calendario è una convenzione sociale, peraltro alquanto inefficiente. Sono per l'autodeterminazione dell'inizio dei periodi organizzativi, per dirtela semplice. Mamma mia, in famiglia, che gelo in famiglia. Mario invece? Allora, io volevo segnalare agli ascoltatori contribuenti che dal 1 gennaio ovviamente noi paghiamo di più il risparmio previdenziale, evviva, i fondi pensione, le casse professionali, il TFR, anche quello che resta in ma azienda. Ma non di più, tipo il doppio. Tipo il doppio, esatto. Questo lo ricordiamo, visto che la volta buona cambia verso, meno tasse, esatto. Chip e chop. E dal 1 gennaio invece la Spagna, nella tassazione dei frutti del risparmio, pagheranno meno. Se mi date 30 secondi, sì, vi sì, do sì, un paio di numeri. Bravo. Allora, per i redditi da capitale sino a 6.000 euro annui, quindi per interessi, cedole, dividendi, eccetera, pagavano il 21 e dall'altro ieri pagano il 20. Per i frutti di capitale sopra i 50.000 euro saranno tassati al 22%. Sopra questa pure, soglia, questo... sopra questa soglia scenderà dal 24% del 2013 al 23% del 2016. Non solo, è stata anche abolita la maggiorazione per le cosiddette plusvalenze speculative. Ah, prima venivano tassate in Spagna tra il 52 e il 56% se adesso? Realizzate. Adesso tornano ad aliquota ordinaria, quindi tra il 22 e il 24%. Però, quindi non c'è più la speculazione. A tutti quelli che dicono in Spagna non c'è più la speculazione. Ma soprattutto cosa possiamo dire? Che evidentemente la famosa media europea da ieri l'altro tende ad abbassarsi un filino. Che la media europea speranza, invocata dal governo per alzare. Con la speranza che smetteremo di dire che siamo inferiori alla media europea. Siamo inferiori, ma sul piano cognitivo. Bravo, sul piano cognitivo. No, guarda che l'hanno fatto per alzarla la media europea e riportarla a pari. Ah, ecco, sì, sì, esatto. Il nostro sì, contributo la è quello della armonizzazione. Sì. Allora, a me ha fatto molto rabbia, lo dico da giornalista autocritico, quello che è successo alla conferenza stampa del Presidente del Consiglio del 29 dicembre, e cioè che cosa è successo questo. Buon anno a tutti. Ringrazio il Presidente del Consiglio, ringrazio tutti voi, mi scuso con i colleghi. Allora, voi avete sentito l'applauso dei giornalisti, l'applauso. Allora, questa cosa può essere che sia io un po' troppo incazzoso, secondo me. La domanda che subito mi sono posta, ma in quale paese libero, non sto parlando della Corea del Nord, non sto parlando ovviamente dell'ISIS, ma in quale paese libero la stampa applaude alle conferenze stampa dei Presidenti del Consiglio? Allora, questa domanda noi la facciamo a una giornalista che è stata, diciamo, tra le poche a fare domande secche, abrasive, contenutistiche e che hanno naturalmente fatto cambiare l'espressione della faccia del Presidente del Consiglio, un'italiana sì, corrispondente del Financial Times, lavora per il Financial Times, Giulia Segreti. Buona mattinata, buon anno e grazie di essere con noi, Giulia. Buongiorno a voi, buon anno, non oso dirlo, però lo dico comunque. Bravo, ti perdoniamo, perché... Giulia, ti perdoniamo. Grazie, grazie. Lavori per un giornale comunista, come avrebbe detto un vecchio Presidente del Consiglio, presidente, però ti capiamo perfettamente. Esatto. Esattamente. Allora, nella tua esperienza, Giulia, ma si applaude nelle altre conferenze stampa nei paesi liberi? Ma devo allora, paese libero, penso che possiamo comunque definire l'Italia un paese libero, però l'applauso, devo essere sincera, è stato abbastanza particolare. Non me l'aspettavo, non è molto da conferenza stampa, anche se diciamo che la conferenza stampa di fine anno è un insieme di conferenza stampa, notizie o forse assenza di notizie, è anche un po' un momento più show forse dell'anno, no? Ho capito, però la stampa deve partecipare empaticamente allo show o fa un altro mestiere? No, allora secondo me dovrebbe fare un altro mestiere, poi ognuno è libero di esprimere esprimersi a modo proprio, poi come hai giustamente indicato ci sono anche stili di domanda diversi, modi di fare anche molto diversi, forse anche dettati anche da obiettivi diversi, da modi di scrivere diversi, ma ognuno poi alla fin fine forse cerca di raggiungere il proprio obiettivo. L'applauso no, secondo me non ci stava, non ci stava. L'applauso, secondo te anche un po' in un momento un po', no, abbiamo avuto la citazione di Al Pacino, abbiamo avuto il richiamo alla serie TV The Newsroom, diciamo che forse quello ha portato a... Io tendo a correlare l'applauso con la presenza del cannolo e del croissant. Penso che sia più semplice dare una spiegazione di nessi causali di questo genere, Giulia, no? Ma il cannolo e il croissant noi non ce l'avevamo lunedì. No, secondo me invece questa nonostante cosa... Nonostante la fila all'alba di lunedì per entrare... No, credevo per i cannoli. Ma detto no, questo... No, nessun cannolo. Secondo me invece questa espressione, per carità, io non la censuro, come, ognuno si comporta come crede, ma io invece penso che questa reazione, siccome è una reazione istintiva, dica molto, come tutti i riflessi istintivi, di un retroterra culturale, della maniera di parecchi, io dico parecchi colleghi italiani, che sono due cose secondo me che bisognerebbe tentare di evitare per questioni deontologiche. Io rispetto l'opinione di tutte, io sono più liberista, c'è cioè chi è più statalista, ma detto questo, primo, troppo tifo, cioè le proprie simpatie politiche prevalgono sul fatto che tu devi rispondere a colui per il quale scrivi o parli alla radio o fai servizi televisivi, che è il tuo vero interlocutore e che la pensa diversamente da te. Non è affatto detto che la tua simpatia debba fare da filtro. L'applauso significa che c'è un filtro. Primo. Seconda cosa, c'è poco da fare. Se uno vede le nostre trasmissioni televisive del servizio pubblico, qui c'è un filo governativo, cioè la simpatia per chi vince, perché con Berlusconi è stata per anni e anni una cosa che era dominante e così via, però la simpatia per chi vince che tradisce un'altra debolezza culturale. Ma come la pensano i miei compagni? Mi interessa innanzitutto, Giulia, lo so che sei diplomatica, si è capito, ma tu come la pensi su questo? No, allora, secondo me no, il troppo tifo deve essere assolutamente evitato e forse in alcuni casi c'è. E la simpatia per chi vince non lo so, non so se in questo caso si può applicare. Forse aggiungo un terzo elemento, uno sfogo voleva mandarci. Sì, era un applauso liberatorio. Era un applauso liberatorio. Sì, dopo due ore di conferenza stampa. Devo essere sincera, quest'anno è stata molto meno lunga del solito. Molti colleghi purtroppo non sono riusciti neanche a fare le loro domande, però non lo so, io sì, lo condannerei soltanto in parte, però direi questo. Allora, no, ma per carità, era solo una riflessione culturale, però per esempio io dico un'altra cosa, che debba iniziare con la difesa dell'ordine dei giornalisti e chiudere con la difesa dell'ordine dei giornalisti, che nel pieno rispetto delle opinioni altrui, secondo me è una vergogna e va abolito. Allora, questa è un'altra bella manifestazione della corporazione, perché quello è il tema che interessa solo agli iscritti, che viene anteposto a tutto quello che c'è nel paese, al traghetto che era in fiamme. Come si fa? Ma si scioglierà mai sta corporazione? E vabbè, tu Giulia ne sei, per così dire, solo in parte implicata. Ma io sono una giornalista italiana, quindi io faccio parte dell'ordine dei giornalisti. È particolare la conferenza di fine anno del Presidente del Consiglio sia organizzata dall'ordine dei giornalisti. Non penso che i miei colleghi a Londra, anzi no, non è che non penso, non è così. Ecco, non è così. Questo è il dato strutturale. Questo è il dato strutturale, perché se no c'è una collusione fra controllore e controllato, no? C'è una specie di cattura regolatoria anche in questo caso. No? Invece dobbiamo avere il coraggio di tenere separati gli interessi, perché solo questo garantisce la funzione di controllo che il giornalismo e la ricerca fanno sul governo. Allora, io l'ultima cosa che dico è che hai molti ascoltatori che ieri, quando ho lanciato questo tema, hanno detto: ah, ma con Berlusconi non dicevi. No, innanzitutto con Berlusconi, guardate gli archivi di Radio 24, anche con Mario Seminerio e tanti altri, abbiamo fatto trasmissioni dal 2010, 2011, 2012 in cui ne avevano detto di cotte e di crude. Il problema è indipendente dal colore politico del premier in carica. Il riflesso condizionato è purtroppo permanente in una parte del giornalismo italiano. Io non faccio la lista, come avete sentito, i compari di Radio 24 rispettano tutti, però i giornalisti italiani nel loro complesso devono porsi il problema. Avere un filtro di simpatia significa fare male il proprio mestiere. E poi, come si vede dalle domande, la collega Financial Times e quella Wall Street Journal non hanno fatto incazzare, perché hanno fatto domande ficcanti, numeri, cose non mantenute. Che hanno fatto domande. Ecco, hanno domande, fatto domande, bravo Mario. Okay. Questo, noi non siamo esterofili. Hanno fatto domande. Io vorrei tanti altri italiani che facessero domande. Perché ha detto questo e non l'ha fatto? Forse quelle sono le domande più ficcanti rispetto al viva il violino, eccetera eccetera eccetera. Vabbè, comunque capita anche con gli studenti, Carlo Alberto. Devo dire che negli ultimi anni gli studenti, specialmente internazionali, sono diventati molto più controversi, c'è molto meno rispetto. È una bellissima cosa, perché io per esempio li invito a non avere nessun rispetto per chi sta in cattedra, perché devono imparare a fare questo lavoro meglio di chi gli insegna le cose di oggi. E questo secondo me è la grande sfida, ed è una cosa che deve fare un Presidente del Consiglio, non cercare consenso consenso nella stampa, ma cercare sfida e confronto. Ma se qui chi critica diventa gufo, su, è un anno che andava avanti con questa storia, come Berlusconi che diceva che non leggeva i giornali, sempre la stessa storia. Allora, grazie intanto a Giulia e continua a fare il tuo mestiere benissimo come lo fai, a fare domande ficcanti, e beata te perché sei brava e quindi scrivi per un grande giornale internazionale. Allora, il primo blocco tematico che affrontiamo in questa trasmissione riguarda gli aumenti delle tariffe autostradali, cari ascoltatori. Io sono già arrabbiato, Oscar, mi è saluto qua in macchina per la prima volta, ti confesso, venendo da Aosta, è un salasso, è stato un salasso ancora più alto, ti confesso, stamattina. E il bello è che il telepass un po' ti ingannano perché ti ottunde il senso digitale non te ne rendi conto, no? Però io giustamente ho voluto controllare. Aspetta, perché tu dici sempre che non è vero l'obiezione digitale, che con le carte elettroniche non ci si rende conto della spesa. È solo una questione di interfaccia utente, caro Oscar. Se come correttamente dovessi ricevere un messaggio in tempo reale, avrei comunque piena contezza di quello che spendo. E invece ci tengono all'oscuro. Allora, ricapitoliamo i fatti. Parte scatta l'ennesimo aumento in questo 2015 delle tariffe autostradali. Le richieste erano fino al 4% dei concessionari. Il ministro Lupi vanta il suo ruolo di calmieratore, dice no, ma sono di pochissimo, inferiore all'1,4%. Ricordiamo a tutti che l'inflazione è in corso, Mario? C'è stato questo tweet di San Silvestro del ministro Lupi, diceva aumenti inferiori all'inflazione programmata. Lui pensava fosse l'1,5, l'inflazione programmata 2015 è 0,6, per cui in questo paese succede che anche l'inflazione programmata cala all'insaputa dei ministri. Esatto, e quindi in realtà l'aumento che poi scatta è, diciamo, tra il 200 e il 300% superiore alla inflazione dell'anno. Ma il punto non è solo quello di fare il conto su quest'anno. Se facciamo un conto retrospettivo, cioè dalla privatizzazione della rete a oggi, in 15 anni l'aumento delle tariffe concesso non da autorità, arriveremo a questo punto, perché all'autorità dei trasporti che nel frattempo è nata non gli hanno dato la competenza sull'autostrada, ecco, gli aumenti che si sono accumulati sono del 70% di fronte a un'inflazione che è di poco superiore negli stessi anni alla metà. Quindi noi siamo in presenza di aumenti dei canoni a vantaggio dei concessionari che non si giustificano con l'inflazione. Uno potrebbe dire vabbè, ma loro hanno fatto molti investimenti nel frattempo. No, tratta per tratta la distanza tra gli impegni per gli investimenti da realizzare e quelli effettivamente realizzati variano dalla concessione alla concessione dell'autostrada, comunque sta nell'ordine tra il 25 e il 65% di investimenti non fatti rispetto agli impegni. Terza cosa, qualche mese fa questo governo in un decreto dà un'ennesima possibilità di protrarre le concessioni agli attuali concessionari senza gara per il momento di 6 mesi e si vedrà. Allora, questa è una terza cosa che non va. Quarta cosa, l'autorità dei trasporti, quella guidata da Camanzi, nel frattempo continua a dire ma perché non date a noi la competenza per fare interventi non decisi dal ministro politico pro tempore? Ecco, questo è il quadro delle cose che, pur essendo noi per il mercato, non ci piacciono, perché questo diventa un abuso di posizione dominante, per così dire, è vero? Se non c'è una interlocuzione forte, con criteri precisi e selettivi, che dica cari signori, non avete fatto gli investimenti, innanzitutto non si fa la proroga delle concessioni ma si rimette a gara, secondo vi scordate aumenti regolarmente così tanto più elevati dell'inflazione pro tempore se per investimenti voi non accogliete, non realizzate gli impegni. Ne parliamo, oltre che tra di noi, e chiedendo a voi di telefonare l'800 24 00 24, con il professor Marco Ponti, che insegna economia applicata al Politecnico di Milano e c'è anche un blog che vi invito a seguire sul Fatto Quotidiano, che spesso pizzica temi come questi dell'economia dei trasporti. Buongiorno professore. Buongiorno a voi. Cosa dice professore di questo bel aumento, ma degli aumenti complessivi in questi 15 anni? L'analisi fatta è buona, ma la realtà è ancora peggiore, ecco, di bene, così bene. Perché non userò parole mie, ma le parole dell'ingegner Castellucci, che è l'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, che in un convegno pubblico ha dichiarato che la normativa che regola le autostrade è il paese di Bengodi per i concessionari, possono solo guadagnare in più o meno, ma non hanno nessun rischio e solo possibilità di guadagni. Quindi il problema vero è che sono stati scritti patti scellerati, ma quei patti rimangono, e temo che il ridotto aumento di adesso sia in realtà solo un rimando di aumenti peggiori successivi, perché tanto per dare un'idea di come sono scellerati questi patti, i piani finanziari su cui le concessioni si basano sono segretati, cioè non si possono nemmeno vedere, perché sono fatti per una ragione normativa di cui mi sfugge la logica, tra due SPA, SPA, cioè società formalmente private, una è l'ANAS e l'altra sono i concessionari. Beh, questo patto, ricordiamo anche, la interrompo solo, aspetti professore, la interrompo solo per ricordare a chi è in ascolto, che magari non è detto affatto se lo ricordi, perché non è un addetto lavoro, che l'ANAS nel nostro ordinamento pre, diciamo, istituzione dell'autorità, a cui però non abbiamo ancora dato la competenza sui concessionari autostradali, era sia concorrente dei concessionari privati, perché eserciva direttamente altri tratti autostradali, certo, e sia in teoria vigilante e regolatore, un altro pasticcio, certo, terrificante. Chiusa parentesi, prego, certo, prego, continui. Dunque, il problema è che esistono dei patti segreti che danno luogo a questi aumenti, che non possono essere analizzati da soggetti terzi. Ma anche se lo fossero, cioè anche se davvero l'autorità potesse avere la delega sulle autostrade, come sarebbe sacrosanto, temo che potrebbe fare molto poco su patti di natura privatistica sottoscritte dalle parti, perché i concessionari farebbero causa e probabilmente vincerebbero le cause. Ho capito, ma professore, ma come è possibile che... Com'è possibile che delle concessioni pubbliche continuino a essere affidate a dei testi che hanno la forma di patti tra privati? E questo francamente è uno degli aspetti orribili di questa questione, ma davvero orribili. Ma quello più orrendo è dei patti non sindacabili di lunghissima durata e estremamente favorevoli ai concessionari, che possono fare di fatto quello che vogliono. Il punto però veramente su cui occorre attirare l'attenzione, ma l'ha già attirato lei, è quello di prospettare un ulteriore prolungamento delle concessioni, perché questo veramente grida vendetta al cielo. Allora, per capirci, anche qua, aspetti professore, sì, io la interrompo solo perché ogni volta che le tocca un punto io spiego a chi è a casa. Per capirci, le richieste dei concessionari attuali sono queste: per l'auto Brennero, che è già scaduta in teoria la concessione nel 2014, la richiesta di proroga è al 2045. Per le autovie venete, che scade nel 2017, la richiesta di proroga del concessionario privato è al 2038. Per la Torino-Piacenza scade nel 2017 anche questa, la richiesta di proroga è al 2043. Per la Torino-Milano scade nel 2026, proroga al 2043. Per l'autostrada dei Fiori scade nel 2021, proroga al 2043, e così via al 2043 anche la SAV eccetera eccetera, e tutte le altre del gruppo Gavio. Cioè stiamo parlando di proroghe che da sole valgono una moltiplicazione cioè del margine del concessionario per miliardi, miliardi e miliardi accumulati. Questo naturalmente, certo, significa per il concessionario avere più forza nella raccolta di crediti dalle banche, eccetera, più forza anche nelle altre attività, perché questi gruppi poi sono anche gruppi che fanno engineering, costruzioni e così via, non è che fanno tutti solo in casa, sì, esatto, in casa. Esattamente. Quindi sì, questa roba qua è la proroga su queste basi, su patti privati, una roba inesplicabile, professore. E infatti, ma questo e non è andata ancora, era talmente scandalosa la cosa che all'ultimo momento la normativa di Sblocca Italia, che conteneva questa possibilità per i concessionari che si accorpavano di avere proroghe, è stata resa in formula dubitativa, cioè non è garantito automaticamente, perché la prima versione di Lupi era una garanzia automatica. Lo Sblocca Italia è un decreto di giugno, per ricordarci, ecco. Sì. Era un prolungamento automatico all'eternità. Quindi lei sta dicendo che lei sta dicendo che è Lupi il garante di questo patto? No, perché per fortuna è stato reso dubitativo, cioè si vedrà la possibilità di estendere in caso di fusioni le concessioni senza gara. Quindi un minimo tampone è stato messo, ma rimane ancora un'incognita molto forte, perché devo dire Lupi rimane il portatore di questo messaggio. Allora, il ministro è il portatore degli interessi dei privati con patti segreti, e noi ci dobbiamo accontentare del fatto che sì, forse le frazionano un po', ma senza gara resta il principio. Io invito voi ascoltatori a riflettere se sia tollerabile che le concessioni date ai privati rimangano, lo dice uno che vuole il mercato, ma questo non è il mercato, questo è un patto tra gente che prende il pubblico e fa patti tra privati senza dirlo e renderli possibilmente analizzabili e criticabili. Ecco, cioè è una roba intollerabile. Alcune sms dicono: ve ne occupate solo perché c'è Renzi, il tuo amico coglione di un Giannino, quando c'era Berlusconi non te ne occupavi. Falso, falso. Questa è la vostra reazione, la dice lunga su come vi dividete ancora in tifosi. Falso. Andate a vedere, trovate nel blog, il Leoni blog su cui scrivo, e troverete che da anni l'Istituto Bruno Leoni si occupa di un regime trasparente dell'affido delle concessioni. Non c'entra niente il colore politico dei governi. Il problema è che sia quelli di destra sia quelli di sinistra si comportano allo stesso modo, purtroppo. Questa è la tragica realtà. Chi vuole il mercato non vuole patti segreti, capite? E in cui se non realizzo gli investimenti in cambio non solo non vengo punito sulla tariffa ma premiato, ma mi becco pure la proroga della concessione. Che dici, Carlo Alberto? Dico che provo a fare un po' il bastian contrario, che serve molta più trasparenza, anche perché ci apprestiamo a semi privatizzare Poste e a semi privatizzare Ferrovie, quindi dobbiamo stabilire fondamentalmente un principio di trasparenza. A quotarle, non a privatizzarle. Semi privatizzarle, sì, perché privatizziamo dei profitti monopolistici, fammi dire, no? Senza liberalizzare. Però posso spezzare una lancia e qui sfido il professor Ponti. Per me le concessioni, se fatte in maniera trasparente, controllabile e verificabile, devono essere lunghe, perché il ciclo di rinnovo tecnologico delle autostrade richiederà grandi investimenti di tracciabilità, controllo, trasmissione dati, integrazione. Cioè le autostrade dovranno diventare autostrade a forte intensità tecnologica, non si tratta solo di mettere giù asfalto e cemento. Cosa ne pensa, professor Ponti? No, ho un'obiezione di fondo. Questo è un argomento portato a gran voce dai monopolisti e dai concessionari. Noi dobbiamo fare investimenti e dobbiamo ammortizzarli in tempi eterni. Non è più così. Con le tecnologie di valutazione e di regolazione moderne è possibile fare meccanismi di subentro prima che l'intero investimento sia ammortizzato. Si tratta di calibrare molto bene le tecniche di subentro e la ripartizione dei rischi. Sono questioni molto complicate di cui ho parlato all'Ocse recentemente, ma è possibile, perché in lunghi matrimoni sono fonti di sciagura tra pubblico e privato. Ecco, tra pubblico, non parliamo di quelli delle famiglie. Sì, cattura, il privato riesce nella gara, nel momento di gara deve far fronte a una competizione, ma dopo, durante il lunghissimo matrimonio, cattura il funzionario del ministero, non so come dire, diventano amici, ed è umano che diventano amici se la concessione è molto lunga. Quindi la teoria regolatoria economica dice, e l'ha detto anche l'antitrust molte volte, a qualsiasi costo ma concessioni non troppo lunghe con buone tecniche di subentro per gli investimenti di capitale e un controllo indipendente come è l'autorità o come può essere un'autorità ben costruita, perché sennò i rischi sono troppo forti, e infatti quello è un argomento dei monopolisti, quelli che non voglio legare. Carlo Alberto, sei stato respinto con perdita. No, invece voglio ribadire che il tema ci sono tecniche anche per eventualmente accorciare o subentrare anche a concessioni di lunga durata. Cioè io privilegio in questo momento il fatto che a questo paese servono investimenti importanti piuttosto che a perfezione qui formale. Stiamo premiando gente che in teoria si impegna a fare. Io voglio trasparenza. Esatto. Ma deve essere con trasparenza, ma non necessariamente un matrimonio lunghissimo. Esattamente, per di più protratto. Io preferisco i matrimoni con clausole di recedere. Secondo me il problema è sempre il solito dell'Italia: non esiste il controllo e non esistono le sanzioni. Siamo partiti con controlli e sanzioni che non esistono. Stiamo andando avanti con controlli e sanzioni che non esistono e torniamo sempre lì siamo. Siamo incapaci di controllare e sanzionare. Devo dire la verità, questo fatto leva argomenti a chi come me vuole il mercato, perché a questo punto diventi l'amico di gente a cui viene garantito un regime di vantaggio. La cattura regolatoria si può limitare con altre modalità, certo, per esempio con forte autorità indipendente. Io trovo che siamo all'inizio di un ciclo tecnologico importante, e fatemi difendere invece chi vuole prendere in mano le cose con logiche di medio-lungo termine, perché se no accorciamo tutti l'orizzonte. Questo è un paese che ha accorciato tremendamente l'orizzonte di maturità e suoi investimenti. Però rendiamo espliciti, ma questo è fuori discussione, su questo siamo completamente d'accordo. Però posso sfidare il professor Ponti e dire sì, ci sono ricette tecnologiche e organizzative anche per questo. Sentiamo un ascoltatore, Daniele dalla provincia di Padova. Daniele, come la pensi? No, io la penso che abbiamo costruito noi l'autostrada con i nostri soldi e la collettività, e abbiamo regalato la gallina delle uova d'oro a dei vari gruppi che sono diventati multimiliardari. Io sarei per ritornare al pubblico, tutte le autostrade che sono state costruite dal pubblico che ritornino al pubblico. Cioè le rinazionalizziamo, Daniele? Le rinazionalizziamo. Con che soldi? Come con che soldi? Ritorniamo alle concessioni e sarà espropriamo lo Stato che gestisce queste autostrade. Allora, attenzione. Ma quando scadono le concessioni, Daniele, io posso dirti una cosa: la tua opinione è molto diffusa tra gli italiani e tra gli ascoltatori. Non credere che tu sia a minoranza, è molto più probabile che siamo in minoranza noi. No. Detto tutto questo, attenzione, perché l'idea che riespropriamo tutti i privati, ci isoliamo dai mercati mondiali. Con che soldi necessari per gli investimenti? Daniele. Non è mica vero che dei gruppi sono diventati multimiliardari con le concessioni autostradali, no, non è mica vero che hanno guadagnato miliardi. Stiamo facendo la trasmissione sul fatto che guadagnano troppo rispetto appunto, a quello. E allora, se questi soldi fossero state gestite bene queste benedette autostrade dal pubblico, non sarebbero ritornate alla collettività. Daniele, soldi, ma è un'ipotesi francamente dura da provare. Però intanto, Daniele, tentiamo di riflettere sul fatto che è il pubblico il regolatore che fa dei patti strani con questi privati. Il pubblico, capisci? Quello qui voi siamo d'accordo se Lupi, il ministro attuale, mi dice che vuole prorogare le concessioni, mi dice che continua a fare gli aumenti che sono multipli dell'inflazione e dice che è buono, che è bravo, io intanto me la prendo con lui, che è la politica pro tempore. Questo lo faccio io, ci vado molto di meno in autostrada. Questa non mi pare che sia una soluzione, no? Andare molto meno in autostrada, avere i tempi di percorrenza, strade alternative. Io sono, vorrei fare uno scandalo e dire che sono tendenzialmente d'accordo con l'ascoltatore, perché se in questo paese viviamo di cattura regolatoria, cioè se abbiamo creato uno strato di intermediazione politica, se abbiamo un drammatico problema culturale a creare delle autorità forti ed indipendenti come auspica Carlo Alberto, ed è un problema culturale, allora scusate, ma perché avere degli strati proprietari con un finto privato? Allora è meglio riportare tutto in casa al pubblico, così diminuisce il livello di tangenti implicite ed esplicite che passano. Professor Ponti, questa è una provocazione, me ne rendo conto, non è un programma elettorale. Intervenga, professor Ponti, che dice? Sono d'accordo, molti studiosi, professor Ragazzi, tra l'altro mio collega amico che ha scritto su questo, io stesso ho scritto, l'ipotesi di tornare al tutto pubblico non vuol dire poi che tutta la gestione pubblica, si fanno gare specifiche, per esempio per la costruzione e poi per la gestione ma separate, senza bisogno di un meccanismo concessorio che ha tutte quelle caratteristiche che è stato detto, pur mantenendo aspetti competitivi rilevanti. Anche per introdurre tecnologie si possono fare gare separate, cioè lo spezzatino, sostanzialmente la soluzione è lo spezzatino. No, professor Ponti, non dica queste cose qua. Voglio proprio vederlo, l'ingegnere del Ministero dei Lavori Pubblici che concepisce le tecnologie moderne. Siamo di fronte all'inizio di un grandissimo processo di rivoluzione dei trasporti privati. Perché mi dice queste cose? E si fida ancora degli ingegneri dell'ANAS per progettare questo futuro? No. Non progettano gli ingegneri dell'ANAS. Arriva un privato e dice: io farei questa rete di controllo automatico del traffico. Oppure questa rete di alimentazione elettrica, per esempio di fornitura di punti per l'elettricità, per i mezzi elettrici lungo l'autostrada o quant'altro, e offre lui la tecnologia che viene poi messa in gara. non che si affida all'innovazione tecnologica alla mano pubblica che non è in grado di farla. Allora su questo ci siamo, finalmente abbiamo trovato una convergenza. Non occorre fare grandi blocchi, cioè mettere tutti insieme costruzione, gestione, manutenzione e innovazione tecnologica. Allora siamo d'accordo sull'unbundling, come si dice, sulla spacchettamento. Assolutamente. Allora, è condizione minima. Come vedete, cari ascoltatori, non c'è la preclusione ideologica al recupero di un ruolo pubblico, capite? C'è una soluzione di spacchettamento di ciò che si può far fare meglio ai privati, senza dargli chiavi in mano tutto, dai diritti proprietari ai impegni di investimento mantenuti, eccetera, eccetera. Questa è la soluzione. Sì, ma non accorciamo però il fiato di questo paese che ha bisogno di tornare a respirare sul lungo periodo. Sentiamo Dario da Brescia, come la pensa, Dario? Ma io la penso così, che il programma del governo Renzi era quello di fare una bella lotta alle rendite, e tra le rendite c'è anche quella delle autostrade, e questa lotta qua non la vedo dalle cose che avete detto voi, dallo Sblocca Italia, mi sembra che le rendite siano sempre più garantite. L'altra questione che non avete toccato è che gli aumenti dell'1,5% che decorrevano da ieri l'altro sono una parte degli aumenti, sono la sospensione degli aumenti, perché il ministro l'ha detto chiaramente: adesso le richieste che mi avete fatto voi e che sono in quei patti segreti di cui parlava Ponti le teniamo lì, cioè dal 4 al 15%, perché sono in condizioni straordinarie e non posso fare questi aumenti, ma entro 6 mesi io vi garantisco che rispetterò quei patti che ho presi con voi. Questo si legge tra le righe. Non tra le righe, i 6 mesi sono stati concessi nel decreto mille proroghe approvato dal governo il 24 dicembre esattamente per fare quello che dice lei, quindi non tra le righe, il governo ha assunto un provvedimento altro che tra le righe nel senso del comunicato del ministro, dava per scontato di potersi dimenticare che il mille proroghe. Sono stato bravissimo e mi sono limitato all'1,5%, mentre la realtà è quella che a giugno noi ci troveremo di nuovo quegli aumenti. Esatto, grazie Dario. Prego. Prego. No, ok. No, credo che sia un punto fondamentale. Lotta alle rendite era inteso in maniera molto selettiva, cioè lotta al risparmio di questo paese, al risparmio privato. Le rendite, il concetto che Renzi ha in testa di rendite non corrisponde al senso comune, perché tutto quello che sta venendo fatto, quello che è stato fatto, ad esempio, con sto business as usual sulle autostrade, dimostra che Renzi e il governo Renzi non hanno un concetto molto chiaro del concetto di rendite. Perché rente fece per essere risparmio. Franco da Roma, come la pensa? Rapidamente, Franco. Franco, ci sei in linea? Eccomi, sono in linea. Eccoci qua. Una cosa che pochi sanno, l'ANAS è un ente dello Stato. Sì, certo. Cioè, è posseduto al 100% dello Stato. Sì. E va strutturalmente a rimborso di IVA, perché paga più IVA di quanto non ne incassi. Ebbene, tutti gli anni paga decine di milioni alle assicurazioni che rilasciano una fideiussione nel credito che l'ANAS ha di IVA. Lo Stato chiede una fiduzione per se stesso di garantire un credito anche l'assicurazione ha diritto di vivere, caro Franco. Poi, perché lei è così cattivo? Le regole sono le regole, scusa. Soldi sprecati, assolutamente buttati dalla finestra. Grazie Franco, io voglio ricordare a chi a casa crede di dire non state mascherando le responsabilità storiche di questi patti. Guardate che il processo di privatizzazione dei concessionari autostradali italiani 96-99 per capirci è una cosa che abbraccia le responsabilità della sinistra e della destra. Vi è chiaro questo? O pensate ancora una volta che ci sia una differenza di fondo? Cioè, le determinanti per cui abbiamo questi patti segreti con i concessionari autostradali sono tragicamente condivise dalla destra e dalla sinistra italiana. Vi è chiaro? O pensate che di tifare per qualcuno che è il bene contro qualcuno che è il male? Su questa vicenda no, Mario, o no? No, ma assolutamente. È un unico monoblocco catturato da un settore privato che storicamente fa il capitalismo a debito, no? Che questa è la realtà di questo paese, non stiamo scoprendo nulla. Io sono stupito e anche abbastanza irritato, ma quello è un problema mio, del fatto che c'è questa costante polarizzazione. Ma loro allora, e gli altri, e voi, e loro. Ragazzi, qui non c'è nessun bipolarismo. Qui c'è un'unica entità che fa un duopolio fortemente collusivo ai danni dei consumatori. In questo paese, finché non cambia la testa, cioè la cultura, non si potrà fare, caro Oscar, nessun mercato che sia anche lontanamente simile a questo concetto. No, purtroppo temo che tu abbia ragione, perché queste sono innumerevoli le conferme che ne vengono. Comunque posso dirvi, ragazzi, che io ho delle autostrade oggi in Italia che sono qualitativamente migliori di quelle 20 anni fa, potete dire quello che volete, e un po' di lavori sono stati fatti, e non è giusto comparare l'inflazione, perché non stiamo parlando di una commodity che è rimasta costante. Quindi per quanto ci siano stati dei favori, io devo dire, lo sai che le teorie del cap regolatorio c'è l'inflazione, ho capito, e il price cap però si è perso per strada, giusto? Siamo finiti a parlare solo di inflazione. Guardi, non sto difendendo nessuno, sto semplicemente ricordandovi che per completezza non è giusto citare solo l'inflazione, dovremmo comparare il livello di servizio, e possiamo dire che mantenere autostrade in un paese complicatissimo come l'Italia, sia orograficamente che burocraticamente, è più difficile superare la montagna dell'autorizzazione di una provincia, della regione, che traforare il regolatore pubblico, come vedi. Esatto, figurati. Allora, dopo esserci un po' arrabbiati sul tema autostradale, in questo sabato 3 di gennaio, Santa Genoveffa, la compagnia dei compari dei Conti della Belva, Carlo Alberto, Mario, Renato, e andiamo a un addendum di quello che abbiamo detto fino a questo momento. Ci facciamo un giro non sull'autostrada, ma sull'autodromo, dico bene? Vrum vrum! L'autodromo per definizione in Italia. L'autodromo, quello con quello la A maiuscola. Quello di Monza. E allora qui la singolarità è di un governo che, oltre ad aver tassato molte cose in più, oltre ad aver ripetuto che i 18 miliardi di diminuzione delle tasse non ci sono, loro continuano a dirlo, noi continuiamo a dirvi con l'aritmetica alla mano che purtroppo questi 18 miliardi netti non esistono di diminuzione delle tasse, però detto tutto questo, dice no a molte defiscalizzazioni, e adesso parleremo proprio della proposta che c'era per l'autodromo di Monza, che ci sta un po' a cuore da italiani e da amici degli sport motoristici, e nel frattempo però dava vediamo quanti soldi a chi. Allora, questo caso l'ha sollevato il giornale cittadino di Monza, che si chiama Il Cittadino di Monza e Brianza, ed è qui con noi il direttore Martino Cervo. Buongiorno e grazie, Martino, di essere con noi. Buongiorno, grazie dell'invito, buon anno. Allora, voi che cosa avete sollevato? Qual era la questione? Che cosa era in ballo per l'autodromo di Monza, e invece il governo cosa ha risposto? E che cosa ha fatto al posto? La questione in ballo è questa: come forse gli ascoltatori sanno, nel 2016 è l'ultimo anno coperto dalla concessione per il Gran Premio di Monza, e quindi nel 2015 comincia la difficoltosa trattativa per rinnovare la concessione. Dico difficoltosa perché Ecclestone, cioè la controparte, ha fatto capire che considera il Gran Premio poco redditizio, e quindi l'offerta che andrà presentata dovrà essere tosta. In questo contesto Regione Lombardia aveva espresso l'intenzione di intervenire in primo piano nella trattativa, finanziando direttamente i lavori di ristrutturazione dell'autodromo necessari a presentare un'offerta migliore, e quindi ad aumentare le possibilità che questo rinnovo sia portato a termine. Per fare questo Maroni ha fatto un discorso, diciamo, abbastanza ragionevole da osservatori laici ed esterni, nel senso che ha detto: io sono pronto a mettere cifre intorno ai 15-20 milioni nell'autodromo. Attualmente la proprietà dell'intero parco, che racchiude Villareale, l'autodromo e altre aree, è tipicamente spezzettata, per cui alcuni pezzi sono di proprietà di Comune di Milano e Comune di Monza, in alcuni pezzi è la Regione. La parte del parco che comprende l'autodromo non ha tra i suoi proprietari la Regione Lombardia, per cui in accordo sindaco di Milano Giuliano Pisapia, sindaco di Monza Roberto Scanagatti e presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni hanno scritto una lettera al governo per dire: facciamo un passaggio di quote a titolo non oneroso, perché siamo tutti d'accordo, per creare una proprietà indivisa di tutta l'area del parco, in maniera da renderci anche più forte poi nella trattativa 2016, assolutamente, per essere chiari, in maniera che sia contabilmente più semplice intervenire, e soprattutto che politicamente sia una e la richiesta indivisa al governo fiscale. La richiesta qual era? Cosa che è stata fatta in altri precedenti con passaggi di quote molto simili, era: dateci un regime di cosiddetta neutralità fiscale, cioè esentate dalle tasse, perché attualmente si paga per operazioni di questo tipo, anche se sono a titolo non oneroso, una tassa legata al valore delle quote. Siccome il valore delle quote è molto alto, parliamo di una tassa che i tecnici della regione stimavano in 8-10 milioni a fronte di 20 di investimenti. parlando di 8-10 milioni, ma per di, ripeto, esenzione di un conferimento di quote a titolo non oneroso, quindi non stiamo facendo un favore a nessuno, semplicemente per rendere più solida la compagine in vista di quello che avviene poi nel mondo della Formula 1 tra poco. Di fronte a questa richiesta, qual è la risposta del governo? No, nel senso che la richiesta è arrivata sotto forma di due emendamenti che sono stati presentati, tra l'altro con una composizione bipartisan, nel senso che hanno partecipato sia senatori di NCD, sia della Lega, sia del vecchio PDL, emendamenti di tre righe in cui si diceva l'operazione subemendamenti alla legge di stabilità. La commissione di bilancio del Senato li ha in primo luogo decretati irricevibili per mancanza di copertura finanziaria. In secondo luogo si è tentato una disperata azione di lobbying per cercare di convincere il governo a far proprio nel maxi emendamento, che poi ha defalcato di fatto tutta l'attività delle commissioni parlamentari e proposto un unico testo da votare con fiducia al Senato, si è cercato, dicevo, di far mettere come input governativo, di far rientrare dalla finestra, diciamo, del maxi emendamento. Gli esiti sono stati disastrosi, è difficile dire se per dolo o per semplice pasticcio, parliamo di un testo. Il titolo che hai fatto nel suo giornale Il Cittadino di Monza e Brianza è stato: negano anche queste poche cose di esenzione, non devono dare soldi all'autodromo, non è una richiesta di soldi, ma è semplicemente una neutralizzazione fiscale per la nuova proprietà, e intanto ne danno quanti? Beh, noi ci è stato facile fare il gioco, nel senso che hanno dato 100 milioni a Roma Capitale, 110 milioni a Roma Capitale, 100 per finanziare supplettivamente l'Agenzia delle Entrate. 100 per le milioni attività, in più all'Agenzia delle Entrate. E poi tutti i rivoli di spesa che voi contribuite sabato a mettere in luce. La cosa che dal punto di vista logico suona difficilmente comprensibile è che laddove si è voluta negare un'esenzione fiscale per questa partita, che non è una partita di territorio locale, ma è una cosa in cui c'è in ballo il Gran Premio d'Italia, beh, nello stesso testo di legge è stata garantita una detraibilità alle finanziamenti ai partiti, quindi allora evidentemente per quello la copertura, c'è trovata. E poi 100 milioni di euro in più all'Agenzia delle Entrate, il cui attuale direttore, la dottoressa Orlandi, pochi giorni fa è stata protagonista di anche quello, un incidente che rivela istintivamente come la pensa il capo dell'Agenzia delle Entrate, che è succeduto a Befera. Che cosa ha detto la dottoressa Orlandi? Voi sapete che c'è un antico detto, no? Che risale alla Rivoluzione Americana e anzi al 600, alla lotta dei contribuenti britannici sotto gli Stuart, che dice questo detto: no taxation without representation, cioè caro monarca o caro potere politico, scordati di poter tassare coloro a cui neghi la rappresentanza. Allora, la dottoressa Orlandi, il capo dell'Agenzia delle Entrate, che si vede arrivare 100 milioni di euro in più quando ha già miliardi a disposizione, inverte questa frase istintivamente la settimana scorsa e dice no representation without taxation. Nella sua istintività la dottoressa Orlandi era convinta di aver detto la stessa cosa, invece sta dicendo una cosa che si traduce così: i non capienti, quelli che sono nella no tax area, che hanno pochi redditi e quindi sono esenti dal pagare IRPEF, io non vorrei che votassero, perché il capo dell'Agenzia delle Entrate dice che il voto va riservato solo a chi paga le tasse. Allora io ho un sacco di voti. No, ma certo, allora reintroduciamo il voto per censo. Questo è il capo dell'Agenzia delle Entrate a cui diamo 100 milioni di euro in più, capite? E questa roba non ha neanche fatto titolo sui giornali, tanto che è riflesso condizionato. No, ma vabbè, però forse la tua interpretazione è un po' dura. Sì, un po' forzata. Io sono d'accordo. Io sono per una repubblica per azioni. Te pensa un po'? Io sono convinto che il voto legislativo sia one man one vote. Il voto esecutivo, cioè per le delibere di spesa, debba essere proporzionale alle tasse pagate. Pensa un po' come ma pensa. Dai, non si può fare questa roba. Non possiamo tornare allo stato censitario. No, lo stato. Come no? No, il governo, che è molto diverso. Non confondere due cose. Stato, ovviamente, democrazia one man. Lo Stato è solo il governo pro tempore. Questo mi ha insegnato, ragazzi. Ti ha insegnato una cosa sbagliata. Sì, perché invece... Vedi, i liberisti, come a seconda dei maestri a cui guardano, come si dividono. No, ragazzi, su. Torniamo a Monza un secondo. La cosa della Orlandi è indegna, ma sui 100 milioni di euro per premiare gente che la pensa così. No, il problema è che l'autodromo di Monza invece è un'eccellenza nazionale, è tra l'altro uno dei posti più belli dove guidare. Non so se ci avete mai fatto un giro, ma vi invito a farlo. No? È un pezzo dell'eccellenza italiana, è una delle aree su cui si concentra l'attenzione sul paese una volta all'anno, insomma, più volte all'anno, ed è veramente un peccato che trattarlo in questo modo. Trattarlo in questo modo, perché ancora una volta parliamo di eccellenze, parliamo di fabbisogno di ricostruire il brand dell'Italia di fronte al mondo. Monza ce l'ha sempre garantita questa abilità. Non capisco, francamente, c'è mezzo mondo che si contende la visibilità sulla Formula 1 e noi che ce l'abbiamo con grande onore. Ma è meglio Roma Capitale, come si vede dal Capodanno, dai vigili urbani, non lo so cosa dal ne segretario dell'Ospol che dice che l'83,5% di vigili non in servizio a Capodanno sono una percentuale normale per il tempo e il periodo. Questa è la dichiarazione del sindacalista che è dietro l'organizzazione di questo meraviglioso esempio, che naturalmente conferma la ragione dei due salvataggi sotto Alemanno e sotto Marino, per complessive cifre di superiore ai 15 miliardi di debiti messi in gestione commissariale separata. Questo è quello che costa al contribuente salvare Roma, capite? Mentre gli altri comuni se lo scordano, i virtuosi vengono bloccati dal patto di stabilità. Noi continuiamo a salvare Roma e i sindacati dicono che l'83,5% dei vigili urbani che mancano la notte di Capodanno con 600.000 persone per strada sono una percentuale normale. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Eccoci tornati in diretta in questo sabato 3 di gennaio, Santa Genoveva, sono le 11:07 minuti agli studi di Radio 24 di Milano. Carlo Alberto. Mario. Renato. Ed eccoci anche con il sottoscritto Oscar Giannino. Dice un altro ascoltatore: ci fate ridere voi dei conti della Belva se dite che le privatizzazioni sono buone ma sono state fatte male. È lo stesso argomento dei comunistacci che dicono che in realtà il comunismo era santo e sacro. Peccato però che sia stato realizzato male. Vi sbagliate anche voi. Bene, e quindi questa è una bella critica a cui risponderemo in una bella puntata di bilancio sulle privatizzazioni in generale. Io non credo che sia giusto dire che bisogna tornare al pubblico, però bisogna su questo settore per settore indicare delle soluzioni. Oggi su Autostrade ve ne abbiamo fatto un esempio concreto, non ideologico, perché come vedete il professor Ponti, e ci siamo trovati tutti d'accordo qua, ha reindicato un modello di intervento che salvaguarda un ruolo pubblico che oggi non c'è nella trasparenza delle regole e lo continua a collegare al diritto proprietario, ma apre alle gare per le diverse cose che su quella infrastruttura vanno fatte con più trasparenza, tempi che devono conciliare i tempi lunghi di cui parlava giustamente Carlo Alberto, in un orizzonte di investimento di un paese che ha perso il 27% di investimenti pubblici e privati in questi 5 anni, e contemporaneamente però con una rispondenza agli interessi degli, ovviamente, a contribuenti e soprattutto utenti, che in questi anni è mancata. Però dobbiamo farlo per tutti i settori e tante puntate avremo di fronte a noi. Allora, adesso apriamo la riflessione su un altro tema. La domanda diventa, caro Alberto, caro Mario, caro Renato, facciamo come la Grecia? Caro Alberto, facciamo come la Grecia, cioè, per essere chiari, elezioni anticipate in Grecia, 25 di gennaio, Syriza è in testa, partito di sinistra che si è mangiato il PASOK. Syriza dice degli attuali 320 miliardi di debito pubblico greco, più dei due terzi, 227-230, sono oggi in pancia ai paesi euromembri, compresa l'Italia, e alla BCE. Ecco, di quei 220 noi chiediamo un abbattimento del 50%, cioè chiedono il terzo default del debito pubblico greco in 4 anni. Noi ci perderemmo come Italia una ventina di miliardi, e in tutto questo dicono in più la BCE si deve impegnare per 60 anni a comprare il debito pubblico greco, che poi viene emesso a interessi zero, e così diamo una spallata ai vecchi tedeschi. Allora, questa in sintesi estremissima la cosa. Non male come idea, vaste programma, direbbe Charles de Gaulle. Sai cosa mi fa divertire? Che in Grecia quelli di sinistra vogliono ristrutturare il debito a rimanere nell'euro, E in Italia è la destra che vuole uscire dall'euro e vuole pagare i debiti in lire. Qui siamo in una situazione un po' strana, francamente, non lo so. E tra l'altro con grandi studiosi che stanno in questo momento arrabattandosi per trovare un equilibrio su questa situazione qua, tra cui appunto un collega a cui voglio molto bene, che è Gustavo Piga, che è in linea con noi al telefono. Gustavo, ci sei? Come state? Ben trovati. Professor Piga insegna economia politica a Tor Vergata a Roma e grazie di essere con noi. Lei ha scritto e sostiene pubblicamente che questa di Siriza non è un rischio, un pericolo, come dicono in tanti, ma che anzi è una straordinaria occasione, e lei si augura che Siriza ce la faccia, perché questo potrebbe cambiare i connotati delle regole sbagliate europee. È così? Sì, sì, assolutamente così, anche se devo dire politicamente non faccio parte di quella famiglia. Intanto una premessa, voi abbiamo una elezione, no? Quindi non dovreste chiamare un economista, dovreste chiamare forse un politologo. Una elezione, un evento banalissimo dove il popolo si esprime democraticamente, andiamo a casa, poi ci risentiamo le elezioni fatte per commentarlo. Invece il problema è che noi non ci fermiamo qui, e di fronte a questo momento democratico normalissimo abbiamo un imbarazzo, ci cominciamo a vederlo con grande paura, temiamo lo strumento democratico, abbiamo un senso di disagio. Questo lo sanno i greci, lo so io che ho cercato disperatamente con poco successo di movimentare un referendum contro l'austerità in Italia, ed è un problema enorme dell'Europa, quello di temere la democrazia. Fatta questa premessa, se mi date un secondo, io ho parlato con degli economisti che staranno dentro la squadra eventuale di Siriza. Oh, Siriza se non vince a gennaio e il Parlamento è bloccato, sapete che in Grecia si rifanno le elezioni. Si rifanno, e tra l'altro molto spesso quello che succede è che alla seconda botta il partito di maggioranza relativa va meglio, perché i greci dice basta, non vogliamo saperne di votare ancora. E loro mi dicono: noi avremo due cose, sappiamo con certezza che faremo. Uno, prima cosa, sono tutte e due cose molto interessanti. Primo, andiamo al tavolo delle negoziazioni con una serie di proposte che sappiamo bene andranno discusse con i paesi partner dell'Unione Europea. Questa è una cosa importantissima, che spiega il mandato che ha ricevuto Siriza dal popolo greco e cosa c'è nella testa del popolo greco. Cioè, noi greci vogliamo stare dentro l'Unione Europea e le sue regole, dei trattati, non dei regolamenti, e dentro l'euro. Cioè, noi stiamo parlando di un paese che ha sofferto tantissimo, 5 anni di recessione terribile, disoccupazione, e vuole stare in Europa e nell'area dell'euro. Segno cosa? Che questo progetto europeo ha una valenza culturale, io direi per i greci quasi antropologica, ma soprattutto che l'euro è il simbolo di questo progetto, e che uscire dall'euro e adottare la dracmetta è il simbolo della fine del progetto europeo, e non è una semplice, come dice qualche economista, mossa economica. È come divorziare: si sopravvive, magari si sopravvive pure meglio, uno, non si torna indietro, e due, le cicatrici sono pesanti, e questo divorzio è il divorzio che la Grecia vuole evitare. La Grecia vuole far funzionare meglio questo matrimonio. E qui, e non ti sembra un po' strano che questo sia un messaggio che deriva dalla sinistra, mentre in Italia è a parte politiche invertite questa considerazione, Gustavo? Sì, sì, sono d'accordo, però io rappresento, quando siamo andati al referendum, ti assicuro, abbiamo girato per tutte le piazze d'Italia. È vero che poi non siamo arrivati alle 500.000 firme, anche perché eravamo bloccati da un organo di stampa che non ci hanno mai chiesto di parlare su questo, ma quando andavamo per le strade e spiegavamo il nostro referendum non è contro l'euro, ma è contro l'ottusa austerità, moltissima gente a quel punto diceva: ah sì, firmiamo. Cioè la Lega è al 10%, Grillo non è chiaramente contro l'euro, fanno dei dibattiti costanti, il rimanente dell'Italia, che sia contro l'austerità o fuori dell'austerità, dentro l'euro ci vuole stare. Quindi questa idea divorzio versus matrimonio da far funzionare meglio, secondo me c'è anche in Italia. Certo, in Grecia è molto più chiaro, ma forse perché la Grecia è veramente vicina al burrone e quindi deve veramente decidere cosa fare. Comunque tu hai sbagliato felpa, se devo dirti la verità, cioè girare con le tue belle giacche di tweed per forza poi non ti firmano il referendum, Gustavo. Hai ragione, fammela dire questa. Però c'è Mario, non hai la felpa giusta, non sei abbastanza felpato. Posso far parlare Mario Seminieri, che qua sta mi ha appena morso l'avambraccio. Ciao Gustavo. Tutta questa considerazione, Gustavo, sono affascinanti, però mi lasciano alcuni dubbi strutturali. Nel senso, Gustavo, tu dici i greci vogliono l'euro, va bene, possiamo anche prenderlo come un dato di fatto e corroborato da sondaggi e quant'altro, però l'euro nell'assetto attuale è non funzionante, quindi serve un'unione politica e trasferimenti fiscali. Ora, poiché Syriza e tutte le famiglie politico-culturali che in qualche misura si possono ricondurre a Syriza restano minoritarie in questo continente, io temo che, visto che non riusciremo a, o tu pensi che Tsipras parte da Atene e conquista l'Europa, oppure l'esito finale è inequivocabilmente un altissimo rischio di uscita della Grecia dall'euro e quindi un effetto contagio anche sull'elefante nella cristalleria, perché non, cioè, prendiamoci Italia in giro, il 2015 se la Grecia finisce anche obtorto collo a uscire dall'euro in maniera disordinata e caotica, un minuto dopo abbiamo tutto il pianeta che mitraglia l'Italia. Professore, rispondi subito all'obiezione di Mario. Sì, allora intanto condivido con Mario, cioè il punto fondamentale è, allora, quindi che cosa chiederà Syriza a questo tavolo? Perché ce lo dobbiamo chiedere. Loro arriveranno a questo tavolo e chiederanno, uno, chiederanno la fine dell'austerità. Tra l'altro, notate bene che questa austerità, mettiamola all'interno di altre costruzioni, per arrivare al punto di Mario, mettiamola all'interno di altre costruzioni tra stati diversissimi che adottano la stessa moneta. Beh, queste costruzioni, la più famosa di tutte è quella degli Stati Uniti, di successo, e per avere successo che cos'ha, come giustamente ci ricorda Mario? Dei meccanismi di solidarietà interna che anche quando le cose vengono fatte male o succede una crisi in uno Stato, immediatamente quelli che stanno bene gli vengono in soccorso. Parliamo di Massachusetts e razzista e improduttivo Alabama, California e razzista e improduttivo Mississippi. In ogni anno Mississippi e Alabama ricevono il 10% del loro reddito senza se e senza ma dai paesi più ricchi in nome di questo concetto che fece parte della costruzione iniziale dell'Europa, stranissimo, ormai sparito, che finisce con l'accento sulla A, che si chiama solidarietà, e adesso è stato rimpiazzato da un'altra cosa con l'accento sulla A che io non riesco quasi a pronunciare, che si chiama austerità. Quindi il problema che chiedono i greci è la fine, prima cosa che chiedono, ancora prima della ristrutturazione, è la fine del fiscal compact, la fine di questo progetto. Vabbè, che ormai vabbè, si è dimostrato non fa, no, attenzione, però è importante. Ah, però per carità di Dio, professore, però se vogliamo dire che i greci adesso, dopo due salvataggi per 200 miliardi, ce ne chiedono altri 110, ce lo dimentichiamo e facciamo solo filosofia, io sarò un cretino, come è noto. Però intanto io starei ai fatti. Intanto starei ai fatti che l'obbligo di intervento per evitare il default degli stati americani dell'Unione non c'è. La California è andata in default, New York è andato in default, e lei, professore, questo lo sa benissimo. Quello che funziona in America è che ci sono i mercati dei beni e dei servizi che sono unificati. Qua chi vuole l'Europa vuole tenerli separati. Perché se dici che un professionista può offrire i suoi servizi, o un qualunque artigiano, in qualunque paese dell'Unione Europea, in Grecia come in Italia, quelli che dicono di volere più Europa ti dicono col piffero, perché vengono i rumeni, vengono i polacchi e così via. Allora, se vogliamo credere a un sistema monetario ottimale come l'euro non è, su cui siamo tutti d'accordo, dobbiamo partire dai mercati unificati. Il principio che qualcuno, non si capisce stampando dove i soldi e a spese di chi, paga i debiti di chi li fa allegramente, spacciato come l'Europa democratica, eredità del V secolo a.C., su, per me non ha alcun fascino. Sarò in minoranza, ma sono in minoranza rispetto a tutti voi. Io ho fatto delle obiezioni, Mario ne ha fatte alcune dicendo guarda che la crisi poi dell'Italia è dietro l'angolo, se succede, se sfugge di mano. Mario Draghi, altro tema importante da richiamare, ha fatto gli interventi in questi giorni che hanno fatto un po' sorridere chi lo vede ancora così a fatica a ammettere che c'è un rischio di deflazione, no? Sì, che dice Carlo Alberto? Sì, però posso dire adesso, voglio farmi spezzare una lancia a favore di Gustavo. Cioè, effettivamente sono due fasi. C'è una fase di uscita dalla recessione che è indispensabile, perché sennò fai un'austerità sull'incapacità di una nazione di riprendersi. Beh, loro, no? Loro, se parli di questo, ci sono usciti dal secondo trimestre di marzo, vediamo. Però è vediamo. È poca roba su quello che hanno perso. Hanno perso 26 punti, quindi è ovvio che è ridicolo. Ma volendo parlare dell'Italia, è oggettivo che bisogna trovare un equilibrio temporale fra una sequenza che secondo me prima prevede l'uscita dalla recessione e poi un processo serio, profondo di riforme strutturali. Non so cosa ne pensa su questo Gustavo. Io voglio tornare al punto, è tutto legato, per cui bisogna prendere un po' di tempo, voglio tornare al punto di Oscar. Guarda che ha ragione Oscar che gli Stati Uniti hanno fatto fare default e i mercati si sono presi tutta la botta, ma in questo caso Oscar è successo esattamente l'opposto. Non c'è mai stato default, è successa una cosa molto semplice: il rischio è stato interamente trasferito dalle banche che hanno prestato alla Grecia senza controllare a chi prestavano a noi contribuenti. Vero. Oggi è vero. Ho capito, però i privati dei titoli greci hanno avuto un haircut del 75%. Oscar, tu di haircut non ti puoi lamentare, né io né te, francamente. Oscar. Tant'è che oggi i mercati non reagiscono a quanto sta succedendo in Grecia perché stanno tranquillissimi. Però fammi finire, quello che succederà esattamente è questo: la Banca Centrale Europea, la Commissione Europea, l'Europa stanno chiedendo alla Grecia, come sempre, di rinegoziare quel debito sotto condizioni di austerità. I greci, tra l'altro, dicono una cosa ancora europea: non dicono facciamo default, e a quel tavolo non andranno dicendo facciamo default, dicono una cosa molto più intelligente, dicono: ah sì, voi ci dite che le riforme genereranno crescita, vabbè, noi siamo 5 anni che aspettiamo e questa crescita non la vediamo perché secondo noi tutto dipende invece dall'austerità che ci forzate, ma allora vi mettiamo alla prova, e questa è una proposta che abbiamo fatto da tanti anni per risolvere la crisi, noi chiediamo di convertire il nostro debito che non abbiamo mai ripudiato, ma che oggi è a cedole fisse, in un debito che si usa tra l'altro in tanti paesi del mondo, che ha delle proprietà molto utili, in cui le cedole sono condizionate all'andamento dell'economia. Vero. Quindi, se effettivamente le riforme funzioneranno e l'euro e la Grecia, come voi ci dite, da 5 anni, malgrado non sia vero, riprenderà a crescere, nessun default, noi pagheremo regolarmente. Se però voi vi siete sbagliati e continuiamo a avere recessione, PIL nominale che continua a diminuire, allora, cari miei, noi non vi pagheremo cedole, perché il titolo dice quando l'economia va male non vi paghiamo, e a quel punto che succederà? A quel punto il re è nudo e finalmente gli europei avranno fatto quello che dice Mario, perché effettivamente che succederà? Abbiamo salvato le banche, ma a quel punto sono i contribuenti europei che non riceveranno le cedole, e quindi di fatto ci sarà un meccanismo di solidarietà europea forzata, tra virgolette, forzata, un'unione fiscale forzata. A quel punto il re è nudo e si dovrà decidere che cosa fare, perché lo puoi fare una volta, poi devi decidere se effettivamente vuoi vivere in un mondo in cui, come dice Mario, ed è probabilmente difficile, ma si chiamerà il bluff tedesco, e si vedrà se effettivamente questo può reggere nel tempo o meno. Però è questa l'importanza della mossa non renziana, timidissima, della flessibilità, ma coraggiosa di Sirisa, di chiamare il bluff e di dire in che tipo di Europa vogliamo vivere, e a quel punto decideremo, perché ripeto, se il QE di Draghi è di nuovo condizionato all'austerità, se il QE di Draghi è compriamo i titoli soltanto sovrani buoni, questa non è un'unione fiscale. Un'unione fiscale con austerità, gli americani non la fanno. Ma no, ma infatti non è un'unione fiscale, ma su questo è inutile, i trattati attuali non sono così. Fubini scrive da 2 giorni, avventurandosi, secondo me, da quello che ho capito da Bruxelles, forse ha ragione lui, sul fatto che ci sarebbe addirittura un'intesa in via di formazione tra Draghi, la Merkel e così via, addirittura di modifica dei trattati. Io non lo so. So i trattati li devono firmare gli stati, sono d'accordo, però c'è un piccolo problema di statuto che sai mille volte meglio di me, Gustavo, e può essere guidato solo da un presidente che comunque la BCE nell'ultimo anno e mezzo ci ha regalato un sistema di governance nel quale si assumono oramai ordinariamente le decisioni a maggioranza. Con Trichet questa roba era praticamente impensabile, quindi io comunque, prima di buttare via il bambino con l'acqua sporca, Draghi ci penserei. Tra l'altro c'è chi dice facciamolo capo dello Stato, mio Dio, che è meglio che resti dove sta, No, assolutamente. Draghi stia dove sta. No, cerchiamo di non spararci in alcune parti più o meno nobili, diciamo. Detto questo, io continuo a ritenere che questo bluff chiamato, cioè quello tedesco, per essere chiari, il bluff è quello tedesco da dire no, ma si può andare avanti così, eccetera, eccetera. Non credo che sulla base di un ricatto da parte di chi è in posizione di forte debolezza, perché Gustavo, vedi il punto. Tu dici non cresciamo, ma il problema di Siriza è tornare al peggio del peggio dello Stato che era il più scassato come amministrazione pubblica dell'euroarea. Questo è quello che vedo io, perché lì c'è scritto ripresa delle assunzioni pubbliche, ripresa delle vecchie pensioni, che era il minimo di pensioni di anzianità e di vecchiaia che c'era in tutto il continente, ripristino dei tredicesimi e quattordicesimi. Sembra un programma di vaga ispirazione berlusconiana, se posso, questa è una cosa strana. Per certi aspetti è anche un programma renzista. Io qua devo contraddire Gustavo, nel senso che Tsipras dice dove troveremo i fondi dalla lotta agli sprechi, la corruzione all'evasione. Cioè è un po' quindi, semplice questa cosa. La somma di queste obiezioni, Gustavo, è la credibilità di Syriza, che tu reputi, cioè hai spiegato perché, così forte. Su queste basi, ripeto, il passato, tu dici non c'è stato default, c'è stato default, i privati tosati del 75%, per essere chiari. Dopodiché linee di credito e interventi diretti per oltre 200 miliardi. Adesso la distribuzione del debito è per due terzi nelle mani degli Eurostati e della BCE. Tu dici per il futuro, quello riguarda le emissioni successive, le facciamo con un interesse collegato all'andamento dell'economia reale, nominale e reale insieme, però intanto c'è il 50% in meno di valore. Allora, le basi di credibilità economiche di questa forza politica, questo programma, sono di far tornare a una Grecia forte e credibile su basi proprie, secondo te? Oscar, scusa, io qui cito il mio caro amico Krugman per dire che c'è una sola cosa come economisti che sappiamo, che e ne sappiamo poche, è che l'austerità ha completamente fallito. Quindi quello, quando tu parli di credibilità, la credibilità che è veramente crollata, che fa incavolare da pazzi gli Stati Uniti, che portano Larry Summers a urlare di fronte a Schauble in conferenza quando Padoan, che è presidente dell'Unione Europea, non parla e cede la parola al tedesco, contrariamente a tutti gli accordi per cui un presidente parla a nome dell'Europa. Questo è quello che è crollato, è questo che deve magari dimostrare qualcosa. Ora noi abbiamo un partito che sta dicendo, signori miei, ve l'abbiamo dati 5 anni di tempo per dimostrare che il modello funzionava, noi tranquilli, noi faremo così, democraticamente, se poi a voi non vi va, allora sarà inevitabile il divorzio, vedete voi in che tipo di Europa vivere, e a quel punto ti porrai tu, non i greci, il problema del contagio, perché a quel punto sarà tutto il meccanismo che sarà dimostrato, non si basa più sulla solidarietà, che dovrà dimostrare di avere ancora un futuro. Però non mi hai risposto, Gustavo, quando ti ho chiesto, non ti sembra un po' strano che questa cosa qua in Italia sia quasi cavalcata da destra mentre la sinistra di tutto questo tace? Beh, io credo che non abbiamo un vero partito di sinistra, cioè Obama quando fa un deficit del 12% all'inizio della recessione è un economista keynesiano che applica politiche keynesiane normalissime. Gustavo, ti ridò la parola subito. In America quel deficit è sceso al 4% perché a differenza che da noi, dove quando i conti pubblici non tornano scatta l'aumento delle clausole di salvaguardia automatiche dell'IVA con stangate di tasse 2016-2018 30 miliardi e più, lì scatta il sequester della spesa, e con il sequester della spesa che i keynesiani dicevano nel 2013 pregiudicherà la ripresa americana, invece la ripresa americana schizza, però si blocca la spesa. Ecco, queste sono le differenze. Allora tu hai ragione che è vero che la spesa non è stato uno stabilizzatore automatico così forte come lo è stato in altre recessioni, e che sia andato più con i trasferimenti e non la spesa pubblica diretta, ma sta di fatto che il deficit americano, con sequester or not, è stato a livelli vietati in Europa. Per carità, l'11,5%, altro che se. Se tu vai da Abe o se tu vai da Obama e gli provi a spiegare che cos'è il fiscal ti mandano a quel paese, paese. Non lo capiscono, esatto. Ancora prima, fanno un passo prima. Noi abbiamo costruito quella che Zola chiamerebbe una macchina infernale che blocca le aspettative per 4-5 anni, perché non diciamo soltanto che il deficit deve stare a quel livello oggi, diciamo che il deficit deve scendere. Come no? Io sono un imprenditore. Me ne vado in Corea, esatto. Dico che la vera cura è unire i mercati, però non il lender of last resort. Detto tutto questo, però, altrimenti diventa tutto troppo tecnico. Io spero che chi è a casa, e grazie a Gustavo Piga che con noi ha ragionato, tra l'altro, di queste cose bisogna anche imparare a ragionare, e per questo apprezzo le persone come Gustavo Piga, in maniera non tutti montati in cattedra, come anche alcuni cattedratici fanno in Italia, dicendo o la pensi come me oppure vai a studiare. Queste sono materie un po' slippery, sdrucciolevoli, per così dire. Ci sono molti punti di vista, le serie storiche, le esperienze passate, li si può guardare da diversi punti di vista. Io apprezzo molto chi come Gustavo Piga ha una tesi, l'ha sviluppata in tutti questi anni di critica all'Europa, ti fa Syriza, ma per le ragioni che vi ha detto, però ci si può parlare amabilmente, perché un dibattito pubblico in cui ci si manda a quel paese, la cosa che mi colpisce è quanti economisti italiani su questo siano diventati intolleranti. Sbaglio, Gustavo? No, ti ringrazio per i complimenti. Non sono complimenti, perché il motivo per cui con te siamo qui. È bello parlare con voi, basta, chiuso. Ma io non sto citando altri, però è un invito a tutti a ragionare, perché queste sono cose serie. L'Europa non funziona. Io ho le mie riserve, Mario ne ha altre, perché Mario anche ha scritto anni fa, oramai due anni fa, un libro che a oggi uno lo rilegge e dice beh, Mario aveva ragione. Perché come si vede l'austerità non funziona. Quindi altro che, la questione è che io mi interrogo sul fatto che Siriza sia l'agente giusto. Vedremo. Questa Carlo cura Alberto letale che... di cui ha scritto Mario benissimo, invito a tutti a leggere il libro, non lo può fare ma io sì. Questa cura letale però in Italia non ha più nessuno che la interpreta. La verità è che noi siamo in un Parlamento italiano in cui nessuno, Oscar, nessuno è fuori dell'autorità, hai ragione, dell'austerità. Hai ragione. Quindi sei qua a difendere una roba che non vuole più nessuno. Ed ecco che per la serie... Non si può fare, voi lo sapete che finiamo l'ultima mezz'ora sempre con non si può fare, e lo spirito del non si può fare è un po' quello di questo indimenticabile Totò. Io sono un cittadino che pago le tasse, lo Stato mi deve proteggere, voglio i carabinieri, la fanteria, i bersaglieri. Andiamo, non esageriamo, signor Bonocore! E non alziamo la voce! Ecco, perché insomma il non si può fare è una scelta di esempi invece che puntualmente si ripropongono in Italia tutto quello che invece avviene, anche se logicamente non dovrebbe avvenire. E oggi parliamo di una questione apparentemente un po' complicata e tecnica, che però è tra le novità che entrano in vigore anch'esse 48 ore fa, dal 1° gennaio del 2015, riguarda le modalità di versamento all'erario dell'IVA, però riguarda un particolare delicato, sì, perché compatto. Il diavolo fiscale sta nei dettagli, vero caro Oscar? E in questo caso la faccenda è ancora più grave, perché riguarda le imprese che poi sono fornitrici dello Stato, quindi insomma, che non solo in questi anni gli avevano detto vi paghiamo tutti i debiti, e anche lì Renzi a un certo punto ha deciso che li aveva pagati e non si fiata più. Non è vero, hai visto che, però hai visto che il fabbisogno dello Stato è diminuito, basta pagare di meno, basta pagare di meno. Esatto. Ma detto sta tutto usando questo, le imprese primo di gennaio Renato Cefarelli adesso vi spiega questa novità che si chiama lo split payment. Che cos'è lo split payment? Quando una novità del governo è scritta in inglese ti vogliono fregare, ti vogliono anche subito, Beh, questo è normale, cioè l'inglese è fatto per trovare nomi nuovi a cose un po' strane. Lo split payment è il fatto che la pubblica amministrazione ha deciso che pagherà le aziende separando l'IVA dall'importo della fattura, diciamo. Quindi tu pagherà 1000 euro più IVA e diciamo pagherà l'IVA direttamente allo Stato. Allora, per chi magari è un po' ripetitivo, però la mia impressione è che la maggior parte della gente non sappia cos'è l'IVA. L'IVA è l'imposta sul valore aggiunto ed è data dalla differenza fra quello che uno ha come costi e quello che uno vende. Quindi voi comperate 100 euro di materiale, ci pagate, se l'IVA fosse il 10%, 10 euro di IVA, lo rivendete a 150 con un margine quindi di 50, nel quale ci sono anche tutte le spese, eccetera. Adesso non vorrei poi entrare nei costi di quelli della moda e queste cose qua, per cui ci sono già state occhio abbastanza, che ti spenniamo se tocco abbastanza, questo tema. Abbastanza polemiche. Quindi io fatturo 150, incasso 15 euro di IVA, 10 li avevo pagati, 15 li incasso, la differenza è 5 che io devo versare allo Stato. Esatto. Quindi la differenza data dal mio margine dell'IVA è quello che io devo versare allo Stato. Cosa succede? Che se io fatturo senza l'IVA, ho pagato i 10 euro quando ho comperato di IVA e vado a credito di IVA. Allora, se noi facciamo uno split payment, tutti coloro che forniscono la pubblica amministrazione, cosa fanno? Pagano l'IVA su tutto quello che comprano e non poi incassano l'IVA su tutto quello che vendono. Non incassano l'IVA. Creditori. Se questo fosse un paese normale, come quasi tutti quelli dell'Europa, non sarebbe assolutamente un problema. Mandano una bella letterina allo Stato e gli dicono sono a credito di IVA, dopo, una, 15 giorni, dopo 15 giorni gli arriva un bel assegno e loro sono a posto. Ma anche un bonifico. Ma sì, un assegno. No, funziona davvero così? Sì, sì, funziona così. Guarda, no, che in Francia, paese statalista, fiscalista, che ha la pressione fiscale più elevata delle nostre, i tempi sono 15-30 giorni, oltre il contribuente, io non ci credevo, un mio amico che hanno imprese lì mi ha detto no, vieni a vedere, oltre tu scrivi al territoriale equivalente della nostra agenzia delle entrate, ti arriva la lettera di scuse formali e ufficiali, no, e vedere, anche di in francese, Francia. Io ho avuto l'esempio concreto che quello che vi sta dicendo Renato Cefarelli è esattamente così in Europa, ma in Italia invece? In Italia c'è questo piccolissimo problema, il tempo di rimborso IVA tocca i 2 anni, abbiamo anche aperto una procedura di infrazione dell'Unione Europea sul tema, perché noi siamo specialisti nelle procedure di infrazione. Certo. Le multe in Italia ormai sono già una cosa abbastanza, ti spiego così. La differenza che un'amica mi ha scritto da Oxford stamattina: le multe sono una tassa sul comportamento sbagliato, le tasse sono una multa sul comportamento giusto. Geniale. Questa è la dottoressa Orlandi di Agentrata, secondo no, me no, che... no, no, no, la dottoressa, poi vi spiego chi. Bisogna che me la segni. No, quindi, allora, la mia impressione è, come diceva prima Carlo Alberto, che una parte dei finanziamenti IVA siano usati come flessibilità di cassa. Però la cosa del non si può fare è che io mi sono fatto anche una idea del perché è stata fatta questa cosa qua. E secondo me questa cosa qua è stata fatta perché, siccome lo Stato non sta pagando le aziende, bravo, della pubblica amministrazione, bravo, cioè che forniscono la pubblica amministrazione, un sacco di queste aziende falliscono e quindi lo Stato perde l'IVA. Perde l'IVA, bravo. Allora, il momento topico, secondo me, è che all'interno di tutte queste leggine, perché poi bisogna sapere andarle a leggere, c'è scritto che ci vuole una autocertificazione della consistenza patrimoniale del soggetto richiedente il rimborso IVA. Allora, nessuna delle aziende che forniscono la pubblica amministrazione in questo momento, con i pagamenti lunghi che hanno, ha consistenze patrimoniali che le permettono di dire sicuramente io andrò avanti. Quindi loro se la pagano tra di loro, questi vanno a credito IVA, non riusciranno ad ottenere il rimborso perché hanno una consistenza patrimoniale purtroppo nella maggior parte dei casi pessima, e lo Stato si tiene qualcosa come, quest'anno se non sbaglio sono 2 miliardi e mezzo in meno di IVA che hanno rimborsato nel 2014, in più risparmia 2013. Che avendo fatto fallire le aziende risparmia e si paga dei servizi, non tanto perché sai poi un po' di solito qualche cosa, sì, 10-20% lo porti a casa, giustamente quei ragazzini risparmia. Lì che lavoravano nell'azienda tendenzialmente bisognerebbe anche dargli un po' di welfare, però insomma, quindi per farvi ancora meglio capire, farvi arrabbiare magari, anche se non siete, immagino la maggioranza di voi non sarà certo un fornitore della pubblica amministrazione, in ragione del fatto che l'impegno di pagamento integrale del debito commerciale dello Stato alle imprese non, sottolineiamo, non è stato onorato, A, B, per evitare di perdere base imponibile, l'IVA non viene più pagata dallo Stato ai suoi fornitori, ma direttamente dalla pubblica amministrazione che ha comprato, compra servizi o beni dai fornitori, direttamente allo Stato. Quindi lo Stato non perde base imponibile, sapendo però che porta alla morte un bel po' di imprese a cui non ha pagato i debiti. Ecco come si spiega quello che è lo split payment, viene invece presentato all'Agenzia delle Entrate come una strumento essenziale, insieme a un'altra cosa di cui parleremo in un'altra puntata, della lotta all'elusione e all'evasione. E invece, speriamo di avervelo spiegato in maniera proprio banalmente concreta, il modo attraverso cui lo Stato, inadempiente sui suoi debiti, fa in modo di non perdere base imponibile, mentre nel frattempo è in ritardo rispetto al 2013, cioè frena sul pagamento dei crediti IVA. Tre colpe dello Stato messe in fila, tre delitti contro l'economia, tre uccisioni di imprese private, tre distruzioni di fede pubblica. Questo è lo Stato, capite? Che però nei suoi documenti tecnici dice di fare queste cose come lotta all'elusione e all'evasione. No, poi io mi divertirò a vedere con quanto ritardo lo Stato versa l'IVA allo Stato. Perché no, certo, non ci sarà nessuno che si inalbera. Se i tempi di pagamento rimangono gli stessi che di quelli alle imprese, probabilmente un sacco di amministrazioni pagheranno delle multe salatissime per il mancato versamento di IVA allo Stato. Ma alla fine, Cifarelli, è semplicemente un modo per lo Stato di finanziarsi a carico delle imprese senza pagare interessi. È un debito senza costo, io, no, di fatto. Allora, questo è quello. Negli ultimi anni il IVA, cioè i rimborsi IVA e i pagamenti alle aziende sono diventati quello che in azienda si chiama flessibilità di cassa. Cioè, quando tu vuoi un po' di flessibilità di cassa, cosa fai? Non paghi qualche fornitore in ritardo, queste cose qua. Il credito IVA, cioè i crediti IVA e il pagamento alle aziende sono diventati del tutto flessibilità di cassa negli ultimi anni. E quindi questo significa che con meno flessibilità di cassa il 2015 sarà un po' diverso da come viene raccontato. No, ma adesso poi aumentano gli anticipi. Ah, ecco, esatto, quindi è un'ulteriore cosa da avere più liquidità pronta. No, ma adesso andremo su degli anticipi sul 200%. Adesso poi quando siamo arrivati al 250, cioè avremo pagato le tasse di nel 2015 del 2017. Allora, detto tutto questo, Renato si è anche divertito a leggere un pochino di testi su questa cosa meravigliosa che si chiama la semplificazione. Renato, semplificami tutto, dai, voglio una settantina di pagine di semplificazione della mia vita fiscale, per favore. No, sono uscite 70 pagine dei primi chiarimenti, certo, dell'agenzia, prolegomeni della batracomiomachia, direi in termini leopardiani, sì. Dei primi chiarimenti dell'agenzia delle entrate. Io ricevo circa 3 circolari al giorno dei miei commercialisti, che poveracci stanno lavorando da... Avete una schiera di commercialisti, cioè, sì, ormai come non è... tutti, ormai... mica ne basta uno. Ferne vari. No, allora... no, ma guardate, adesso chi non ha... Una preghiera per i commercialisti, che da quest'anno diventano penalmente e civilmente responsabili. No, per i dati del 730 precompilato, non so, per quello. Precompilato lo Stato si prende il merito, si Renzi, prende merito, e naturalmente i dati restano a carico penale cioè, di quelli pagati dal privato. Ma c'è la roba, lasciamo perdere. Semplificami la vita. Detto tutto questo, non voglio, do la linea a Renato. Ma guardate che in tutti i primi 2 mesi di ogni anno oramai, ma a una piccola media impresa, non sto parlando della Fiat, sono necessari davvero il doppio, il triplo dei commercialisti, perché si tratta di identificare nella traduzione concreta degli adempimenti tutta la batteria di novità delle leggi di stabilità e delle norme di fine anno. Capponi, cioè, dal commercialista a chiedere lui, le circolari attuative. Ma voi avete parlato col vostro commercialista? No, ma guardate che è così l'Italia. Ma c'è qualche commercialista all'ascolto? Dicevi, Renato. No, allora io, siccome siamo sotto Natale, Capodanno, eccetera, ti ricordi che quando eravamo bambini ti facevano recitare la poesia, no? Sì. Allora io mi sono preparato 2 o 3 brani da declamare leggendo appunto queste lode e gloria dei semplificatori pubblici italiani. Dai, 70 dai. Pagine di semplificazione. Allora, pagina 51. Questa prendi mi piace un bel molto. Respiro. Allora, questa è semplificazione, però. Posto che il principio del favor rei trova applicazione con esclusivo riferimento alle fattispecie sanzionatorie, rimanendo per contro regolata dal principio generale della successione delle leggi nel tempo, cosiddetto tempus regit actum. Vabbè, se c'è il tempus regis actus, a quel punto ci inchiniamo. Favorrei è una cosa, ma il tempus regis actor è... In particolare, dal principio di retroattività, che tutti sappiamo che è sempre... Rispettatissimo dallo Stato italiano. Tasse retroattive come se piovesse. L'applicazione della norma precettiva, tra cui va annoverata quella costitutiva della responsabilità per l'imposta. Allora, adesso è tutto più semplice. Vediamo chiunque a capirci un accidente, per così dire. No, ma allora, voi dovete immaginarvi che in azienda... Lei col suo latinorum, caro Cifarelli, cosa pensa di prenderci in giro manzonianamente? Scusi, No, quello che succede è questo. Vai, lui è amico della Orlandi, si è capito oggi che è amico della Orlandi. Ma io sono quasi contento. Beh, ma lui è per le tasse, sai. È così, allora, le tasse sono una cosa meravigliosa. No, ma lui, ma lui è l'incarnazione della nuova sinistra. Lui infatti vuole un governo censitario ed è per le tasse. È veramente la sinistra italiana 2.0. La nuova sinistra italiana è questa, OGM. No, ma allora, perché poi noi ci stiamo ridendo sopra, però la verità vera è che poi nella maggior parte delle aziende abbiamo tutti un responsabile fiscale. E abbiamo appunto il uno tuo l'ho visto più... crocifisso in sala mensa una 15ina di giorni fa, mi ricordo. No, la mia è una signora ed è bravissima. Quindi, allora, quello che succede è che escono le nuove norme e voi immaginatevi che teoricamente tutta sta gente, commercialisti, responsabili fiscali, eccetera, eccetera, è in ferie. Ma non è che noi, la nostra azienda è chiusa, ma alcune aziende già oggi lavoravano. Il 7 tutte le aziende riaprono e il 7 non è che uno può dire ah no, ci sono le nuove regole, chi se ne frega, tanto per intenderci. Cioè, alle nuove regole andiamo assoggettati. Ci sono migliaia di persone che stanno lavorando sul software, ci sono migliaia di persone che di fronte a 70 pagine è una cosa che è stata pubblicata da Sole, magari poi mettiamo il link anche sul sito della trasmissione. Sì. Allora, queste 70 pagine sono le prime norme che vanno poi a sommarsi alle norme, alla norma vera e propria e a tutte le leggi che sono uscite, che sono state pubblicate ieri in Gazzetta Ufficiale. Cioè, le pubblicano, sapete che la Gazzetta Ufficiale esce sempre con tempi, insomma, compatibili. Non da economia digitale, diciamo. Ecco. Compatibili. Meglio la Gazzetta dello Sport, te lo dico sempre, Renato. Comunque, no. questa è la tragedia della cosiddetta semplificazione del nostro paese. E no, di sicuro, volete... dal punto di vista fiscale, dal punto di vista fiscale, è inutile illudersi. Un atto di semplificazione continua. Questa è una statistica che abbiamo realizzato in Asso Lombardo, ci siamo posti il problema di verificare ai 52, numero 52 tavoli di semplificazione che abbiamo trovato aperti nel nostro paese, sommando semplicemente il livello regionale Lombardia e quelli nazionali, quindi figuratevi sommando tutti quelli regionali a quanti multipli di centinaia si arriva. Però a quei 52 tavoli nel 2014 ci siamo preoccupati di capire in Asso Lombarda quale relazione c'era tra un atto di semplificazione che proveniva dall'iter iniziato in ciascuno di questi 52 tavoli e le conseguenze concrete. E la media, che è da prendere come tutte le medie, quindi un po' i polli di chi ride dietro le statistiche medie, però la media ai 52 tavoli a cui era seduta Asso Lombarda nel 2014 è stato che per ogni atto di semplificazione assunto c'erano 14 atti che determinavano le conseguenze. Voi capite che in questo modo non si semplifica nulla, cioè o noi entriamo in un ordine di idee in cui la materia tributaria non si presta troppo, ma nella quale abbiamo delle norme autoapplicative, scritte in una maniera tale da essere autoapplicative, senza selve di decreti attuativi, oppure non ne usciamo in un mondo complesso. La pubblica amministrazione italiana di questo si riempie la bocca e poi di fatto in realtà fa il contrario. Io torno a ciò da cui siamo partiti, cioè dallo scandalo romano e dai 200 spazzini che mancavano la notte di Capodanno a Napoli per le strade. Allora, vi sembrerà ridicolo che io insista sul fatto noi non abbiamo le statistiche, quindi non possiamo capire bene il fenomeno. Per me invece questa è la cosa fondamentale. Ah, figurati. Il governo ha presentato il sito soldipubblici.gov.it, se ti ricordi, che a domanda risponde. Se fai una domanda, sì, dici quanto hai speso, se di cancelleria nel comune di Mezzara, allora, Rabattone, ti dice 112 euro. Vi dirò euro. Che oggi molti colleghi, in assenza, bisogna faticare molto, come ho detto all'inizio, per avere delle statistiche un po' attendibili. E in assenza di questo, molti colleghi preferiscono prendere oggi la china e dire licenziamo come nel privato anche i pubblici, il Jobs Act. Guardate che anche questa, perdonatemi, il giornalista ha l'obbligo di dirvi che è una cosa che da un buon giornalista io non mi aspetterei. Vi spiego perché. Noi abbiamo già riformato nel 2009 il testo della procedura e delle norme, cioè delle fattispecie e delle sanzioni disciplinari nel pubblico impiego. L'articolo 55 del decreto attuativo della riforma del 2009 prevede già delle sanzioni draconiane nel pubblico impiego, anzi mi tocca dire che alcune sono più draconiane di alcuni contratti privati che sono ancora vigenti in alcuni settori nel nostro paese. Per esempio, bastano 3 giorni di assenza ingiustificata in 2 anni nel pubblico impiego per licenziamento immediato, senza preavviso. Capite cosa vuol dire? 3 giorni di assenza ingiustificata in 2 anni. Questo c'è già nelle norme. C'è il fatto che c'è il licenziamento, in quel caso con preavviso e quindi diritto di impugnativa, per false attestazioni, siano esse di tipo medico che per qualunque altra categoria disposta dalla legge, ex legge 104 per un familiare disabile o per un permesso sindacale che uno si fa riconoscere e poi invece va a fare compere private. Per tutto questo c'è già il licenziamento nel testo vigente disciplinare. Il problema è renderlo esecutivo, cioè la mia opinione è che ci servono sanzioni sui dirigenti che non attuano questo tipo di interventi, di controlli, di verifiche e di, a quel punto anche di interventi se necessari sui dipendenti pubblici che sono loro sottoposti, e soprattutto non c'è una sanzione per i politici alla testa delle amministrazioni che ogni anno dovrebbero essere chiamati a un atto pubblico di rendiconto di ciò che si fa per la produttività, come per rispetto delle norme disciplinari e delle cose che sono già tutte scritte in legge. Non è vero che il dipendente pubblico ha delle facoltà estremamente più ampie di quelle private nel nostro paese. e noi senza i dati non siamo in grado di capire, noi cittadini non siamo in grado di capire quanto vasta e quanto connivente però è la macchina della bassa produttività e dell'astensionismo, perché la connivenza, ripeto, c'è purtroppo ai livelli della dirigenza pubblica e poi a livelli politici. Questo per dire che i dati contano, caro Carlo Alberto. Sì, contano, sono d'accordo con te, figurati, ci vivo in mezzo ai dati. Però fammi dire una cosa invece sul privato. Noi abbiamo un sistema degli ordini che non consente anche alle piccole e medie imprese di avere un'opinione congiunta tra commercialista e avvocato. C'è un bel SMS che ce lo ricorda, no? Mentre ti ricordo che in Italia lo studio dei commercialisti hanno la quota di associati più bassa d'Europa, cioè siamo un paese di professionisti individuali, no? Di one man band, quando oggi servirebbero studi associati articolati in grado di fare operazioni complesse, no? Finanziarie, legali, fiscali. Anche qua c'è, dobbiamo dirlo, no? Che una classe professionale di questo paese che ha vissuto su un modello liberale ottocentesco di come dire, di professione liberale, che non so cosa ci abbia una roba, no, liberale quando è fatta con gli ordini, con le tariffe prefissate. Però ecco, non stiamo neanche lato privato adeguando l'offerta di servizi di consulenza a questa novità. Io devo dire che i commercialisti, non per spezzare una lancia fuori di quell'ordine lì, però rispetto alla rappresentanza forense degli avvocati, no, hanno fatto passi molto più avanti verso dubbio. L'offerta interprofessionale senza proprio e l'organizzazione. Poi siamo ancora indietro in termini di fatto. In qualche caso hanno anche loro un po' di interesse a mancanza di semplificazione. No, lì siamo in classico azzardo morale, per cui, come dire, ma infatti lo Stato oramai li considera propri dipendenti che non paga perché li paga il cliente. E tanto proprio dipendenti che oramai li manda in galera dicendo perché tu rispondi a me, rispondi tu. Credi che la sanzione c'è? È una sanzione pubblica su un signore che fa di fatto sostituto di imposta. A proposito di commercialisti, posso far contento un mio amico commercialista? Le norme che deliberano sull'accordo di ristrutturazione debiti sono il Regio Decreto 257 del 42. La monarchia, vabbè. Cari ragazzi in ascolto, speriamo di avervi reso un po' felice questo sabato d'inizio anno. Continuate con Radio 24, un saluto dai diversi compari. Carlo Alberto, Mario, Renato e Oscar. Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamo